4 mattino. Bestia, lo sai se fanno riposare quelli di 70 anni che li tengono in quarantena quante ditarelle chiudono? Perché nella mia ditta, per esempio, siamo in 4 autisti tutti settantenni, perché i giovani non hanno voglia di alzarsi alle 4 di mattina. Le contraddizioni del Trentino. Ieri e oggi cimiteri chiusi per una preghiera per i morti, ma allungamento dell'apertura dei bar per gli spritz fino alle 20 e dei ristoranti fino alle 22. Milano e Monza Brianza, dati disastrosi da 3 settimane, ma i politici non hanno il coraggio di chiudere e vogliono che chiuda tutta l'Italia per mettere a posto il loro problema. Oh, su quest'ultimo punto, che mi sembra molto interessante, c'è da dire qualcosa, perché l'impressione è che siamo tornati un po' allo scaricabarile di marzo, come se la vicenda delle zone rosse di Alzano e Nembro non ci avesse insegnato nulla, in tutta sincerità, eh? Sì, i dati sono pessimi da Milano e Monza e Brianza, sicuramente, e continuo a vedere uno scaricabarile da una parte e dall'altra. Le regioni che dicono deve pensarci il governo che dice devono pensarci le regioni con i sindaci. Sono sinceramente molto perplesso dal fatto che nessuno si prenda questa responsabilità. Il paradosso dei cimiteri chiusi, sì, ha perfettamente ragione l'ascoltatrice, sui giovani che non si vogliono alzare alle 4. Non sono giovane, ho 45 anni, però io alle 4 mi ci alzo, caro ascoltatore, certo non vado a guidare magari nella nebbia, in giornate pesanti, cioè, non faccio un lavoro così fisicamente pesante come il suo, però alle 4 mi ci alzo. Però il tema dei settantenni resta là, dopo quel tweet di Giovanni Toti nel quale dice che gli ultra settantenni in gran parte non sono produttivi, poi proprio lui che viene dalla scuderia di Silvio Berlusconi che ha 84 anni ancora ne macina, Poi ha detto no, mi sono sbagliato, quel tweet è stato estrapolato da un discorso più ampio e allora è colpa del mio social media manager, è sempre la solita storia, poi può darsi anche che sia vero, però io ve lo ripeto, la riflessione è aperta e non... Ci sono tutti i dubbi, non solo produttivi quelli che esprimeva l'ascoltatore, ma anche quelli etici di fare una cosa di questo genere. Al di là del consiglio, naturalmente. E questo è. Le vostre opinioni al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Tanto che, come vi dicevo, Libero apre così. Vogliono rinchiudere i vecchi nell'armadio. Titolone. Vietato uscire se hai 70 anni. Anziani sequestrati è il titolo del giornale. Non sanno più cosa combinare se la prendono con gli anziani. È il titolo della verità. Così i giornali di centrodestra, di destra e centrodestra. Regioni in fuga, decide Conte, miozzo del CTS, no lockdown, è il titolo del Fatto Quotidiano. Braccio di ferro sull'ora del coprifuoco, è la stampa, perché si deve decidere le 21 o le 18. Corriere della Sera, coprifuoco e negozi, nuova stretta. Il Messaggero, chiusure locali, non c'è intesa, in arrivo il coprifuoco dalle 18. Il Messaggero ce lo dà per certo a questo punto, sono le 18, non sono le 21. Coprifuoco e anziani, nuove regole, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Coprifuoco alle 21, ci dice la Repubblica, è battaglia. Ragazzi, aspettiamo questo decreto e vediamo. Il Sole 24 Ore, fondo perduto per 460.000, ecco gli aiuti a ogni categoria. E poi, titolo di centropagina, ci arriveremo su questo, senza PC e internet 300.000 studenti. È il titolo del Sole 24 Ore. Iniziamo da qualcosa di diverso e questo qualcosa di diverso è oggi inevitabilmente il ricordo di Gigi Proietti, che, come vi abbiamo raccontato anche in GR24, come vi abbiamo detto poco fa, è scomparso nella notte, ha avuto un problema al cuore, è stato ricoverato in terapia intensiva, si è capito subito che era grave e appunto se n'è andato questa notte. Un ascoltatore ci ha scritto: se ne va il cuore de Roma, se ne va al Core di Roma. È un pezzo di tutto questo, il pezzo del fatto che fosse il Core di Roma, ma non era solamente questo Gigi Proietti. Allora fatemi ripescare un'intervista che trovate adesso online sul quotidiano La Repubblica e che andiamo a ripescare, che era un'intervista fatta proprio in occasione, in vista dei suoi 80 anni. Avrebbe compiuto, o meglio, li ha compiuti, perché si è morto nella notte, forse ha fatto in tempo a compiere 80 anni Gigi Proietti, in un'intervista fatta proprio per questo. Il titolo è bellissimo, dà un po' la sensazione del personaggio: mi sono liberato davvero quando ho smesso di tingermi i capelli, che non è male, è proprio nel suo spirito. L'intervista, l'attore compie 80 anni, ha appena girato un film e sta scrivendo un libro. L'intervista è di Silvia Fumarola. Gigi Proietti se ne sta a casa buono, tra virgolette, buono, perché questo non è il periodo per fare gli spiritosi e perché ormai c'ho un'età, non lo posso neanche nascondere. Il 2 novembre compie 80 anni, l'attore formidabile di A me gli occhi plisi, il truffatore di Febbre da cavallo, il carabiniere più amato nei panni del maresciallo Rocca, il visionario che dove c'erano immondizie e siringhe ha messo su il Globe Theater, non ama i bilanci e neanche le celebrazioni. Ha girato la commedia Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone, che uscirà a dicembre con Marco Giallini, ex Galeotto, coppia formidabile. Proietti, allora, sta davvero buono a casa? Buonissimo. Non è un periodo facile per nessuno. Deprime perché fanno a gara chi te mette più paura, ma fanno bene. Non sono un guascone, la situazione è seria e poi spuntano quelli come Trump, pericolosissimi. Ci si fa belli trasgredendo. Non sai come girarti. Mi mette un po' d'ansia proprio la mancanza di sacralità della vita da parte dei vecchi citrulli e dei ragazzini, a prescindere dal Covid. La vita è una. Sono diventato vecchio? No, saggio. Le danno sempre fastidio le parole che nascondono il vuoto. Ho avuto qualche problemino di salute e mi sono visto la TV di seguito. Quando parlano del coronavirus dicono tutto e il contrario di tutto. Lo dicono insieme, nello stesso programma. Nessuno obietta. Ma che state a dire? La cosa peggiore è sempre avere colleghi tristi, gli chiede la giornalista. Per amor di Dio, sono tremendi. Questo è un mestiere strano, ha tutti i difetti, ma il gusto della battuta me lo fa diventare simpatico. Se manca pure quella, alcuni non fanno un sorriso neanche se gli spari. Il rapporto con l'età? La vecchiaia c'è e non puoi farci niente. Non mi ricordo chi ha detto: alla mia età la malattia è questa. È una malattia da logoramento, però non mi va di essere pessimista. Ringrazio i miei genitori per il senso dell'ironia. Aiuta. Pensi ai capelli. Ha una testa leonina, commenta la giornalista. Mi sono liberato da quando non mi tingo più. Girando il maresciallo Rocca cominciavo a imbiancare, bisognava ritoccare sempre, sembravo incatramato. Una volta venne uno a farmi la tinta a casa e uscì fuori un colore violaceo. Sul set erano disperati. Allora ho deciso di tagliarmi i capelli. Per abituarti al bianco ci metti tempo. Passi davanti a una vetrina e ti domandi: chi è quel signore anziano? Non starà a casa senza fare niente, che combina? Sto scrivendo un libro, titolo Ndokoio Koio, fuori da ogni regola. Racconterò degli amici e della gente che ho incontrato. E se c'è qualche brano di questo libro, non vediamo l'ora di leggerlo. Signori, Gigi Proietti. Una pausa e poi ci ritroviamo. Mattino. Potrebbe essere eticamente sbagliato, ma in questo momento non c'è niente di giusto, perché se domani dicono state a casa tutti, è sbagliato anche quello eticamente, no? Non possono obbligarti a stare in casa, però lo fanno perché è una situazione di emergenza. Forse è meglio andare verso una parte della popolazione e gli altri magari riescono a fare una vita un po' più normale. Tenere i 70 anni dentro casa è la soluzione che trova il governo, magari poi devono tenere i nipoti mentre i genitori sono al lavoro e certo non sono loro che riempiono i mezzi pubblici, o sì. Io sinceramente penso che in quest'idea di tenere i 70 anni più protetti ci sia anche il punto di non farli vedere ai nipoti, naturalmente. Poi ripeto, la discussione è aperta e c'è un ascoltatore mi scrive e dice: non fomentare anche tu questo scontro generazionale. Però questo scontro generazionale, caro ascoltatore, c'è ed è nei fatti e in quello che vediamo e in come è aperta la discussione su questo tema. E come dicevo prima, la mia impressione è che si componga anche di un altro elemento, che è un elemento più sociale ed economico, se volete. Come dicevo prima, alle 6:30, è che forse c'è anche l'aspetto del conflitto tra garantiti e non garantiti, e quindi pensionati o persone con uno stipendio che la vita se la sono fatta, e persone invece che vivono con una certa precarietà, tra quelli che appunto hanno la proprietà immobiliare e quelli che hanno la precarietà immobiliare. Cioè c'è un elemento di questo tipo che poi scatena inevitabilmente il dibattito, è un pezzo di conflitto generazionale, almeno questa è la mia impressione. Per carità, poi ripeto, discussione sempre aperta e molto molto aperto su questo, a sentire voi, a sentire quello che pensate e come la vedete. Anziani e giovani sono forse le persone più danneggiate da questa pandemia. Può essere, la riflessione sia sugli anziani che sui giovani è aperta sui giornali. Il Messaggero ci porta su quello che è stato innescato dal tweet del presidente della regione Liguria Giovanni Toti: gli anziani non più indispensabili per lo sforzo produttivo vanno protetti. Un tweet del neo rieletto presidente della Liguria Giovanni Toti, il leader del partito di centrodestra Cambiamo, ha scatenato un polverone gigantesco con critiche durissime da parte di politici, sindacati e semplici elettori. Siamo a pagina 4 del Messaggero, il pezzo lo firmano Graziella Melina e Diodato Pirone, con il vice segretario del PD Orlando che dice che è ligure, dice: soltanto i deliri totalitari misurano le vite umane in ragione del contributo che possono dare allo sforzo produttivo del paese. Ma al di là dell'infelice episodio che ha coinvolto Toti, cosa si può fare per tutelare gli anziani dal Covid? L'età media dei morti per Covid, premette Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, ordinario di geriatria all'Università Cattolica di Roma e membro del CTS, è di 82 anni. Ed è quindi evidente che gli ultra ottantenni sono i più colpiti. Dunque dobbiamo difenderli ed essere particolarmente accorti nei loro riguardi. D'altra parte, far stare a casa gli ultra settantenni è inadeguato. Non dobbiamo dimenticare che un settantenne di oggi è come un cinquantenne, quindi che fai? Lo tieni a casa? Questa è una scelta che di per sé non ha alcun senso. Così appunto Roberto Bernabei, che è membro del Comitato Tecnico Scientifico, in quota geriatri, per intenderci e per capirci. Qua interviste di tutti i tipi, a partire da quella che il Messaggero ha con Piero Angela, il quale dice che può resti a casa, ma è impensabile rinchiudere le persone in base all'età. Qualche ascoltatore fa notare, dice: ma come, si fanno tanti ragionamenti etici sul fatto di tenere gli anziani a casa e però questi stessi ragionamenti non vengono fatti per i ragazzi che vengono tenuti a casa in didattica a distanza? E andiamo proprio ai ragazzi, appunto, e alla didattica a distanza, o come si chiama oggi, ci comunicano Eugenio Bruno e Claudio Tucci a pagina 6 del Sole 24 Ore. Si chiama didattica digitale integrata, non è più DAD ma DDI, didattica digitale integrata. Cambiamo nome, ma alla fine in gran parte dei casi, fatte salve le scuole virtuose, gli esempi virtuosi, lo diciamo sempre per non fare tutta l'erba un fascio, è generalmente la stessa lezione che si fa in classe ma fatta in video e con i ragazzi in collegamento da casa. Qual è il tema? Il tema è che non ci sono, ci sono 300.000 studenti che sono senza PC o senza connessione, nonostante tutte le promesse fatte finora, e ancora qua si torna. Il ritorno alle lezioni online ha costretto gli istituti a optare per due nuovi modelli organizzativi. Una settimana in presenza, nei tecnici e professionali si cercherà di recuperare la didattica laboratoriale, e tre a distanza o uno o due giorni a scuola, i restanti 4-3 da remoto, con salvaguardie ove possibile per studenti del primo e del quinto anno, i quali saranno impegnati a giugno nella maturità. Come sapete, in alcune scuole si è passati al 100% di didattica a distanza o didattica digitale integrata, chiamiamola così. così, che così sembra una cosa forte. E per i ragazzi con disabilità ho bisogni educativi speciali. Con il decreto ristori sono arrivati altri 85 milioni sul fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di Viale Trastevere, per consentire alle 8.000 scuole statali di acquistare o concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti meno abbienti 211.000 dispositivi e 117.000 accessi alla rete. Il punto è che, in base ai monitoraggi ministeriali, allo scorso 1 settembre mancavano ancora 283.000 PC, mentre 336.000 alunni non avevano connettività. Dunque, già in partenza ci sarebbero quasi 300.000 richieste destinate a restare inevase. Tanto più che solo da qualche giorno sono partiti i primi bonus da 500 euro per tablet e PC per giovani e famiglie meno abbienti. Vuol dire semplicemente che ci sono un sacco di studenti in Italia che non hanno gli strumenti per seguire la didattica a distanza. E ci sono alcune regioni nelle quali la didattica a distanza si fa al 100%. Questo vuol dire che questi ragazzi o bambini non stanno andando a scuola e non stanno facendo lezione. È chiaro il concetto? Questo è. Giovani che soffrono particolarmente di questa situazione, ce lo racconta ancora il Sole 24 Ore, a pagina 7, con Antonio Noto, di Noto Sondaggi, il quale realizza un sondaggio appunto per il Sole 24 Ore, nel quale dice, ci racconta che c'è un allarme solitudine che arriva dai ragazzi in relazione al virus. Gli italiani avvertono sempre di più il peso della solitudine, ci dice Antonio Noto, un sentimento capace di depotenziare il capitale sociale, rappresentato soprattutto dalle nuove generazioni che si sentono senza una rotta e senza un timoniere nel quale riporre fiducia. E il ritorno prepotente dell'epidemia, con la prospettiva breve di un possibile nuovo lockdown, acuisce ancora di più la sensazione di isolamento, i sospetti verso il prossimo e l'assenza di speranze per l'imminente futuro sotto il profilo emotivo. Dalla ricerca di Noto Sondaggi emerge che nella fascia di età fra i 18 e i 34 anni si riscontra la quota più alta, il 32%, di chi dichiara di soffrire spesso di solitudine, un livello che scende al 21% tra chi ha più di 55 anni. L'età più protesa verso la progettualità è dunque quella a cui la solitudine sta erodendo prospettive, mentre gli anziani sembrano reagire meglio. E vedete come qua, torniamo a quello che si diceva prima, ragionamento anziani e giovani, è una delle grandi questioni che sta evidentemente aprendo questa pandemia e sulla quale sarà da riflettere un po' più a fondo. Cosa associano nel senso di solitudine? Al sentirsi incompresi, frustrati, per il 63%, la difficoltà a vedere partner, amici, parenti, 61%, ovviamente qua le percentuali danno più del 100% perché ha risposta multipla questa cosa, si sentono inadeguati, emarginati per il 58%, mancanza di relazioni affettive per il 55%, questo è il quadro che ci consegna Antonio Noto sul Sole 24 Ore. In merito appunto al come si sentono i giovani e non solamente i giovani. Se vi dovessi suggerire un pezzo per capire cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando, che cosa si deve fare per contenere la pandemia in Italia, vi direi prendete il Corriere della Sera e prendetevi pagina 14 e 15. A firmare il pezzo sono Paolo Giordano, lo conoscete, 37 anni, fisico, scrittore, che nel 2008 ha vinto il premio Strega con La solitudine dei numeri primi e sta scrivendo dei bellissimi pezzi sulla matematica della crisi, della crisi pandemica sul Corriere della Sera. E questa volta si fa accompagnare da Alessandro Vespignani, che stiamo cercando disperatamente da mesi ma non riusciamo ad averlo perché gli orari non lo consentono, in quanto vive negli Stati Uniti. E chi è? Un fisico informatico italo-americano, è uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale, la scienza che studia la dinamica del contagio. E guardate, sono due pagine veramente sontuose su quello che si deve fare, su quello che non si è fatto e su quello che si potrebbe fare. Per stabilire una strategia razionale occorre innanzitutto concordare su alcune verità di fatto, troppo spesso messe in dubbio, esplicitamente o meno, nelle ultime settimane, scrivono. Le riepiloghiamo qui. Il virus non è meno pericoloso che in primavera. Quando crescono i casi, crescono anche le ospedalizzazioni, le terapie intensive e i decessi, solo in ritardo. Se la mortalità viene mantenuta al minimo quando gli ospedali lavorano in efficienza, appena entrano in affanno è plausibile che torni a salire. Gli asintomatici e i presintomatici sono contagiosi e vanno tracciati, altrimenti tanto vale mettersi una benda sugli occhi e sperare in Dio. La tendenza alla crescita esponenziale ci sarà sempre. È nella natura moltiplicativa del contagio. Ci sarà con o senza mascherine, con o senza plexiglass, è un rischio insito in ogni forma di assembramento e non la si può cancellare. Tutto quel che si può fare è mitigarla. Senza mitigazione arriverà comunque il momento nel quale i contagi cresceranno più rapidamente delle risorse sanitarie. Quando la sanità viene travolta, vengono travolti anche i discorsi vacui di chi contrappone salute ed economia. L'economia verrà comunque paralizzata dalla saturazione del sistema sanitario e sarà peggio per tutto, per l'economia, per la salute, per noi, scrivono. Suggeriscono alcune cose che, alcune di queste di buon senso. Indicatori e soglie critiche vanno stabiliti a priori e devono avviare misure automatiche senza lo stillicidio dei veti incrociati e delle consultazioni che ritardano e depotenziano gli interventi. La questione dei dati, non ne abbiamo abbastanza e non vengono misurati nella maniera corretta. Dopo 9 mesi di emergenza ragioniamo ancora in base al saldo di occupazione delle terapie intensive, invece di monitorare i flussi di ingresso e di uscita che permetterebbero di cogliere prima le accelerazioni dell'epidemia. Ma soprattutto raccogliamo pochi dati. Cosa ne è stato di tutti i fogli che nei mesi scorsi abbiamo compilato a mano prima di entrare in teatro in un ambulatorio medico? E perché non abbiamo un modo più affidabile di misurare l'affollamento sulle metropolitane che non siano le foto scattate dai passeggeri? Stiamo perdendo una mole di informazioni preziose, informazioni che raccolte dalla tecnologia portatile, convogliate in un database, ci darebbero un aiuto enorme nella stressante convivenza con il virus. Questo e molto altro in un pezzo francamente consigliato, il traffico. Simone Spezie, io di anni ne ho 71, ma i domiciliari non mi ci faccio mettere né da questo governo né dai presidenti delle regioni, semmai mi ci mette un giudice. No, io guardi, questo sentimento lo capisco, ripeto, la riflessione assolutamente aperta. Tenendo presente appunto che al momento un po' ai domiciliari ci stanno anche i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, quindi occhio, un po' di riflessione, senza mettere in contrasto necessariamente, perché però un equilibrio di riflessione su tutto questo ci dovrebbe stare. Che cosa ancora? Allora, molto rapidamente su Covid ancora vi vorrei portare velocemente sulla questione dei medici di famiglia. Ieri è stato siglato un accordo perché i medici di famiglia facciano i tamponi rapidi, l'ha firmato solamente un sindacato, gli altri sindacati dei medici di base non l'hanno firmato. Molti presidenti di regione stanno pensando se agire duramente nei confronti dei medici di famiglia e costringerli. Luca Zaia lo ha fatto. Dopo essersi sfogato con Boccia e Speranza, scrive La Stampa pagina 6, ieri ha preso carta e penna per firmare un'ordinanza che obbliga i medici di famiglia della sua regione ad eseguire i tamponi, prevedendo sanzioni per chi si tirerà indietro. E attenzione, questo potrebbe scatenare qualche protesta, Anche gli specialisti dello Spallanzani si appellano ai loro colleghi del territorio per il corretto trattamento dei positivi sintomatici in isolamento domiciliare, per individuare chi ha effettivamente bisogno del ricovero. Ma appunto c'è una certa percentuale, un'ampia percentuale di medici di base che non ha nessuna intenzione di collaborare su questo fronte, perché dicono ci sono troppi rischi, non siamo protetti, si rischia di morire, si rischia di contrarre il Covid e di morire. Oh, e per andare più sul leggero, sempre sul tema Covid, vi porto sul Fatto Quotidiano, perché allora, come sapete, il procedimento di pubblicazione, forse non lo sapete, però il procedimento di pubblicazione di un paper scientifico, di una ricerca scientifica, è un procedimento abbastanza complesso che prevede una verifica, una revisione tra pari per vidimare la ricerca scientifica dandole una sua validità, cioè per dire questa ricerca è una ricerca valida. Ebbene, cosa è successo? Che in questi tempi confusi anche sul fronte delle ricerche scientifiche si è fatta molta confusione. E dunque, il titolo del Fatto Quotidiano è: pubblica poi forse controlli, sono stati ritirati 39 studi sul Covid. E il più bello di tutti allora è questo, Nei mesi scorsi due neolaureati hanno utilizzato un articolo sul coronavirus come cavallo di Troia in una rivista che ha poi messo in dubbio la validità di un altro articolo sullo stesso tema. L'articolo era questo: SARS-CoV-2 è stato inaspettatamente più letale degli scooter a spinta. L'idrossiclorochina potrebbe essere la soluzione unica? È firmato dal neolaureato Mathieu Rebaud e Florian Kova, provenienti dal finto istituto per la scienza rapida e sporca in Svizzera, pubblicato su una rivista asiatica di medicina, è stato poi ritirato. E quindi attenzione a quello anche che trovate sui giornali, perché magari viene pescato da una rivista di medicina e insomma di fondato non ha nulla. Per passare ad altro, la questione del terrorismo, perché non è che è finita là, non è che la vicenda di Nizza è finita con l'attentato di giovedì. Ci sono tutte le indagini che stanno andando avanti su Brahim Wissawi, il 21enne tunisino autore dell'attacco alla cattedrale di Nizza, nella quale sono morte 3 persone. È stato ferito gravemente nell'arresto, come sapete. La Repubblica, pagina 18, ci porta sulla rete italiana del terrorista di Nizza, perché a quanto pare c'è un secondo uomo. È una persona che avrebbe fatto il viaggio con lui fino a Lampedusa. Era a Nizza, appunto, l'attentatore con Ahmed Ben Amor, tunisino anche lui di 29 anni, con il quale aveva fatto la traversata via mare dalla Tunisia. Con lui era arrivato a Lampedusa, con lui era stato trasferito a Bari e con lui aveva raggiunto Nizza probabilmente da Roma. E questa è la novità emersa nelle ultime ore dopo l'ennesimo scambio di informazioni tra la nostra procura antiterrorismo e quella francese. A Grasse, 45 km da Nizza, è stato fermato insieme con altri 2 cittadini algerini, Ben Amor, con il quale Wissawi era stato visto parlare il giorno prima dell'attacco alla Basilica. Nel frattempo la polizia italiana ha ricostruito alcuni passaggi di Wissawi in Italia. È arrivato a Lampedusa lo scorso 21 settembre a bordo di un barchino con 21 persone. La polizia ha cercato di rintracciare le persone che viaggiavano con lui, sono 2 nuclei familiari e di altre 11 persone. Tutti dopo l'arrivo in Italia sono stati caricati sulla nave Rhapsody per passare 15 giorni in quarantena, nave che il 9 ottobre è arrivata a Bari, e poi sono stati sistemati nei centri di permanenza per il rimpatrio. Il resto lo conoscete, il famoso foglio di via arrivato a Wissawi, che poi non ovviamente lo ha interpretato come libertà per andare in Francia, per andare a Nizza e a quel punto evidentemente colpire. Qua vi segnalo anche dal giornale, a pagina 14, arrivano le accuse dalla stessa Tunisia, e il ministro dell'interno Gérald Darmanin a spiegare che il ministro francese che era sul territorio nazionale, che Wissawi era sul territorio nazionale solo da poche ore, è venuto per uccidere. In quale altro modo spiegare perché si è armato di diversi coltelli appena arrivato? Non un lupo solitario e nemmeno un migrante economico, come aveva detto alla Digos di Palermo l'amico tunisino che ha ospitato Brahim ad Alcamo nel Trapanese, dove si pensa che abbia pianificata la strage. E qua c'è l'accusa di Tunisi all'Italia: l'Italia importa la jihad dei poveri, dicono da Tunisi appunto, e minaccia l'Europa. A chiudere, il Parlamento europeo, qua torniamo sul Fatto Quotidiano, siamo a pagina 4, a Bruxelles protestano a quanto pare per lo stop alla diaria. Perché? Che cosa è successo? Che il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha chiuso l'ufficio registri. Cos'è l'ufficio registri? È l'ufficio nel quale, per questioni di Covid, il Belgio è uno dei paesi più colpiti. L'ufficio registri è quello nel quale i parlamentari iscrivono la propria presenza alla seduta parlamentare e ricevono la diaria che equivale a 323 euro per ogni seduta, oltre ai 6.600 di indennità e benefit vari. Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. C'è il negazionista croato Mislav Kolakušić che scrive un'accorata mail accusando il presidente del Parlamento europeo David Sassoli di voler chiudere le porte per paura di una possibile febbre. Ma anche il frugale finlandese Nils Torvalds del gruppo liberale Renew, che non vuole rinunciare alla sua diaria perché molti di noi hanno preso casa a Bruxelles con un contratto di 1 o 3 anni. E infine il falco tedesco del PPE Markus Ferber, che proprio non ci sta a vedersi cancellato il rimborso giornaliero. L'esponente della CSU se la prende con la decisione di Sassoli di far svolgere i lavori dell'Europarlamento in via telematica, accusandolo di voler ostacolare gli europarlamentari e di aver fatto perdere la legittimità all'istituzione. Medesime proteste arrivano dall'estrema destra Alternative for Deutschland, ma anche Alba Dorata per la decisione di Sassoli e per questi 323 euro al giorno che sfumano. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli e poi torneremo sulla pandemia, parleremo di politica tra poco.